Allo stesso modo, l'esimio sacerdote crede che la stazione di Saint-Martin-le-Vétus, vicino alla Raspellière, significhi Saint-Martin-le-Vieux, Vétus. È vero che la parola vieux ha svolto un ruolo importante nella toponimia di questa regione. Vieux, generalmente, deriva da vadum e significa un guado, come nel luogo chiamato Le Vieux. È quello che gli inglesi chiamavano Ford, Oxford, Hereford. Ma nella fattispecie, vieux deriva non da vetus, bensì da vastatus, luogo devastato e spoglio. Qui vicino abbiamo Sotva, Sotvast, il Vast di Setold, Brilvast, il Vast di Berold. Sono tanto più sicuro dell'errore del curato, in quanto Saint-Martin-le-Vieux si è chiamato un tempo Saint-Martin-du-Gast e addirittura Saint-Martin-de-Terregat. Ora, la V e la G in queste parole sono la stessa lettera. Si dice devastare, ma anche guastare. Jachère e Gatin, dall'alto tedesco Vastinna, hanno questo stesso significato. Terregat, dunque, è terra vastata. Quant à Saint-Mars, un tempo, on y soit qui mal y pense, Saint-Merd è Saint-Médardus, che diventa a volta Saint-Médard, Saint-Mard, Saint-Marc, Saint-Mars, per arrivare sino a Damà. Non bisogna dimenticare del resto che vicinissimo a qui ci sono luoghi che portano questo stesso nome, Mar, e attestano semplicemente un'origine pagana, il dio Marte, che è rimasta viva nella regione, ma che il santuomo si rifiuta di riconoscere. Le alture dedicate agli dei, in particolare, sono assai numerose, come il monte di Giove, Jaumont. Il vostro curato non ne vuole sapere. In compenso, laddove il cristianesimo ha seminato delle tracce, se le lascia regolarmente sfuggire. Se spinto sino all'Octudi, nome barbaro, dice, mentre Locus Sancti Tudeni. Ne è riuscito in Samarcol a indovinare Sanctus Martialis. Il vostro curato, proseguì Brichot, vedendo che l'argomento mi interessava, fa derivare le parole in hon, home, holm, da hol, ullus, collina, mentre la derivazione è del norreno Holm, isola, che vi è ben noto in Stoccolma, ed è diffusissimo in tutta questa regione. La Ulm, Engoom, Taum, Irobeom, Neum, Keteon, eccetera. Questi nomi mi fecero pensare al giorno in cui Albertine aveva voluto andare ad Amfreville-la-Bigot dal nome di due dei suoi successivi signori, mi spiegò Brichot, proponendomi poi di pranzare insieme a Robhomme. Neome, chiesi, non è vicino a Carquetuit e a Cliturp? Esattamente, Neome è lo Holm, l'isola o penisola del famoso visconte Nigel, il cui nome è rimasto anche in Neville. Carquetuit e Cliturp, di cui mi parlate, sono per il protetto di Madame de Cambremer occasione d'altri errori. Si accorge certo che Kark è una chiesa, la Kirk dei tedeschi. Conoscete Kirkville, per non parlare di Dunkirk? Perché converrebbe allora soffermarci su questa famosa parola, dun, che per i Celti significa un'elevazione, e la ritroverete in tutta la Francia. Il vostro abate è rimasto ipnotizzato davanti a Duneville, che ha pescato nel Eure-et-Loire. Avrebbe potuto trovare Châteaudun, Dun-le-Roi nello Cher, Dune nella Sarthe, Dune nella Riège, Dune-le-Place nella Nièvre, eccetera, eccetera. Questo Dun gli fa commettere un curioso errore per quanto concerne Deauville, dove scenderemo e dove ci aspettano le confortevoli carrozze di Madame Verdurin. Deauville in latino Donville, dice lui. In effetti Deauville e ai piedi di grandi alture. Il vostro curato, che sa tutto, intuisce però d'aver preso una cantonata. Ha letto infatti in un vecchio registro Don Villa. Allora si corregge Deauville, secondo lui, è un feudo dell'abate, domino abbati, di Mont-Saint-Michel. Se ne compiace, il che è abbastanza bizzarro se si pensa alla vita scandalosa che dal capitolare di Saint-Clair-sur-Epte si conduceva a Mont-Saint-Michel, ma non sarebbe più stravagante che vedere il re di Danimarca, signore di tutta questa costa, dove faceva celebrare assai più il culto di Odino che quello di Cristo. D'altra parte, l'ipotesi che la N si sia mutata in M non mi sconvolge e implica una minore alterazione del correttissimo Lyon, che viene anch'esso da Dun, Lung Dunum. Ma insomma, l'abate si sbaglia. Deauville non è mai stata Donville, ma Deauville, Eudonis Villa, il villaggio di Eudes. Deauville un tempo si chiamava Escalecliff, la scala del pendio. E verso il 1233, Eudes Le Boutillier, signore di Escalecliff, partì per la Terra Santa. Al momento di partire, fece donazione della chiesa all'abbazia di Blancheland. Scambio di cortesie, il villaggio prese il suo nome, da cui l'attuale Deauville. Ma aggiungo che la toponimia, di cui d'altronde io sono affatto digiuno, non è una scienza esatta. Se non avessimo questa testimonianza storica, Deauville potrebbe benissimo derivare da Uville, vale a dire le O. Le forme in E, egemort, da acqua, si mutano spessissimo in E e in U. Ora, proprio nei pressi di Deauville, c'erano delle acque rinomate, Calquebutte. Potete immaginare la soddisfazione del curato nel trovare qui qualche traccia cristiana, sebbene a quanto pare questo paese sia stato abbastanza difficile da evangelizzare, visto che ci hanno provato uno dopo l'altro Saint-Ursal, Saint-Gaufroy, Saint-Bersanor, Saint-Lorenzo di Brevedin, il quale alla fine ha passato la mano ai monaci di Bobec. Ma su Tui l'autore si sbaglia. Ci vede una forma di Toft, Stamberga, come in Criquetot, Ecto, Yvetot, mentre è il Tvait, terreno disboscato, dissodato, come in Bractui, Letui, Regne Tuit, eccetera. Allo stesso modo riconosce in Cliturp il Torp normanno, che vuol dire villaggio, ma pretende che la prima parte del nome derivi da clivus, pendio, mentre viene da cliff, roccia. Comunque le sue cantonate più grosse sono dovute meno alla sua ignoranza che ai suoi pregiudizi. Per quanto si sia buoni francesi, è il caso di negare l'evidenza e prendere Saint-Laurent-en-Bray per il ben noto prete romano mentre si tratta di Saint-Laurence O'Toole, arcivescovo di Dublino? Ma più del sentimento patriottico è il partito preso religioso a far commettere al vostro amico errori grossolani. Per esempio, non lontano dai nostri ospiti della Raspellière, abbiamo due Montmartin, Montmartin-sur-Mer e Montmartin-en-Gragne. Per Gragne, il buon curato non ha commesso errori. Non gli è sfuggito che Gragne, in latino grania, in greco crene, significa stagni, paludi. Quanti Grémé, Croen, Grenville, Lengron non si potrebbero citare? Ma per Montmartin, il vostro sedicente linguista vuole a tutti i costi che si tratti di pievi dedicate a San Martino. Trae argomento per questo dal fatto che il santo è il loro patrono, ma non si rende conto che è stato scelto come tale solo in un secondo tempo. O più probabilmente è stato accecato dal suo odio antipagano. Rifiuta di vedere che se si fosse trattato di San Martino si sarebbe detto Mont-Saint-Martin, così come si dice Mont-Saint-Michel, mentre il nome di Montmartin si applica in modo assai più pagano ai templi consacrati al dio Marte, templi di cui non possediamo, è vero, altre vestigia, ma che la presenza incontestata nei dintorni di vasti accampamenti romani renderebbe quanto mai verosimile, anche se il nome di Montmartin non troncasse ogni dubbio. Come vedete, il libricino che troverete alla Raspellière non è dei più attendibili. Obiettai che a Combray il curato ci aveva spesso indicato etimologie interessanti. Probabilmente si trovava più a suo agio nel suo territorio. Il viaggio in Normandia l'ha disorientato e non è riuscito a guarirlo, aggiunsi, perché è arrivato nevrastenico ed è ripartito pieno di dolori reumatici. È colpa della nevrastenia. È caduto dalla nevrastenia nella filologia, come avrebbe detto il caro vecchio Poquelin. Secondo voi, Cotard, la nevrastenia può avere un'influenza negativa sulla filologia? La filologia ha un effetto calmante sulla nevrastenia? E la guarigione dalla nevrastenia condurre ai reumatismi? Senza il minimo dubbio. Reumatismi e nevrastenia sono due forme vicarianti del neuroartritismo. Si può passare dall'una all'altra per metastasi. Il nostro esimio professore, osservò Bréchot, si esprime, Dio mi perdoni, in un francese così infarcito di latino e greco da far invidia allo stesso Messer Purgon, di moglieresca memoria. A me, mio zio, voglio dire il nostro Sarcé nazionale, ma non poté terminare la frase. Il professore, sussultando, aveva lanciato un urlo. Corpo di... aveva esclamato, ritornando poi al linguaggio articolato. Abbiamo oltrepassato Menville, accidenti, e anche Renville. Aveva visto che il treno stava per fermarsi a Saint-Maur-le-Vieux, dove quasi tutti i passeggeri scendevano. Eppure non è possibile che abbiano saltato la fermata. Parlando dei Cambremer non ce ne saremmo accorti. Ascoltate, Ski, aspettate un momento, vi dirò quel che penso, disse Cotard, che si era affezionato a questa espressione usata in certi ambienti medici. La principessa deve essere sul treno, non ci avrà visti e sarà salita in un altro scompartimento. Andiamo a cercarla, purché non ne nascano complicazioni. E ci guidò tutti alla ricerca della principessa Scherbatov. La trovò nell'angolo d'uno scompartimento vuoto, intenta a leggere la Revue de Dumont. Aveva preso da lunghi anni, per timore delle sgarberie, l'abitudine di starsene al suo posto, di rimanere nel suo cantuccio, nella vita come in treno, e di aspettare, prima di dar la mano, che le si dicesse buongiorno. Quando i fedeli entrarono nel suo scompartimento, continuò a leggere. La riconobbi subito, quella donna che, per aver perduto la propria posizione, non era per questo di meno nobili natali ed era comunque la perla di un salotto come quello dei Verdurin. Era la signora nella quale due giorni prima, sullo stesso treno, avevo creduto di indovinare la tenutaria di una casa di tolleranza. La sua personalità sociale così incerta mi si chiarì non appena seppi il suo nome, come quando, dopo esserci affaticati su un indovinello, scopriamo finalmente la parola che rende chiaro tutto ciò che era rimasto oscuro, parola che per le persone è il nome. Scoprire due giorni dopo chi era la persona con la quale si è viaggiato in treno senza riuscire a identificare il suo rango sociale è una sorpresa molto più divertente che leggere nel nuovo numero di una rivista la soluzione dell'enigma proposto nel numero precedente. I grandi ristoranti, i casinò, i tortiglioni sono il museo per famiglie di questi enigmi sociali. Principessa, a Menville non siamo riusciti a vedervi. Permettete che ci sediamo nel vostro scompartimento? Ma come no? Fece la principessa, la quale, sentendo che Cotard le stava parlando, alzò solo allora dalla sua rivista due occhi che, come quelli del signor di Charlus, sebbene più dolci, vedevano benissimo le persone della cui presenza lei fingeva di non accorgersi. Cotard, ritenendo che il fatto d'essere invitato assieme a Cambremer fosse per me una raccomandazione sufficiente, prese dopo un istante la decisione di presentarmi alla principessa, che chinò il capo con grande cortesia, ma diede l'impressione di sentire il mio nome per la prima volta. «Accidenti!» esclamò il dottore. «Mia moglie ha dimenticato di far cambiare i bottoni del mio gilet bianco. Le donne non hanno testa a niente. Non sposatevi mai, datemi retta!» aggiunse, rivolgendosi a me. E siccome era uno degli scherzi che stimava opportuni quando nessuno aveva niente da dire, guardò con la coda dell'occhio la principessa e gli altri fedeli, i quali, in considerazione del fatto che era professore e accademico, sorrisero, ammirando il suo buon umore e la sua mancanza di sussiego. La principessa ci informò che il giovane violinista era stato rintracciato. Era rimasto a letto il giorno prima a causa di un'emicrania, ma stasera sarebbe venuto e avrebbe portato con sé un vecchio amico di suo padre che aveva ritrovato ad Onsière. Madame Scherbatov l'aveva saputo da Madame Verdurin, con la quale aveva fatto colazione quel mattino, come ci disse con la sua voce rapida, nella quale la R arrotata dell'accento russo veniva dolcemente borbottata in fondo alla gola, come se fosse non una R ma una L. «Ah, avete fatto colazione con lei stamattina», disse Cottard alla principessa, ma guardando me, giacché le sue parole avevano per scopo di mostrarmi quanto la principessa fosse intima con la padrona. «Voi sì che siete una fedele!» «Sì, amo questa piccola cerchia intelligente, gradevole, non cattiva, così semplice, senza snobismo, e dove tutti sono pieni di spirito fino alla punta dei capelli. Porca miseria, devo aver perso il mio biglietto, non lo trovo più!» esclamò Cottard, peraltro senza agitarsi più di tanto. Sapeva che a Deauville, dove due landò sarebbero stati ad attenderci, il controllore l'avrebbe lasciato passare senza biglietto, tributandogli anzi più profondi inchini per dare così la spiegazione della sua indulgenza, cioè che aveva riconosciuto in Cottard un ospite abituale dei Verdurin. «Non mi porteranno al commissariato per questo», concluse il dottore. «Dicevate, signore», chiese a Brichot, «che da queste parti c'erano delle acque rinomate. Come lo si sa?» «Lo attesta, fra tante altre testimonianze, il nome della prossima stazione. Si chiama Fervache». «Non capisco che cosa voglia dire», borbottò la principessa, nello stesso tono in cui per gentilezza avrebbe potuto dirmi. «Com'è noioso, non è vero?» «Ma principessa, Fervache vuol dire acque calde. Fervide acque»,